Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Davide Gatti e Simone Pizzi. Voglio una vita spericolata, voglio una vita fatta così, eccola, questi c'hanno i telefonini e cose che gli suonano, va bene. Buonasera a tutti carissimi amici di Runtime Radio, benvenuti in questa nuova puntata di Quando eravamo futuro sul canale YouTube di Runtime Radio e che da domani sarà anche disponibile nel feed RSS del podcast omonimo. Omo, giusto? Non era omofobo? No, non cominciare, non cominciare stasera perché non è il podcast adatto, insomma, stai più vicino al microfono che... Il microfono che sei più appropriato. Ragazzi, questa è una puntata di Quando eravamo il futuro per farvi capire che in realtà il progetto non è morto, ma soprattutto non è morto il progetto di Runtime Radio che, insomma, cerca di andare avanti nonostante i comunicati degli ultimi periodi. Se volete dare una mano a Runtime Radio c'è questo QR code qua sopra che... Esatto. Scusa. Ti volevo impallare. Vai, indica. Ok, andando lì praticamente andate direttamente a fare la donazione a Runtime. È un vero peccato che ci sia la targhetta live sopra, che, però non credo che sia live questa cosa. Non lo so, oramai non lo sapremo mai. Esatto. No, ma in realtà quella tu la vedi tu. Speriamo. No, te lo dico io. Okay, così. Salutiamo i nostri amici, insomma, partecipanti. Tanto Marco Gualdi come ospite. Così, stasera detto. Ero venuto qui a salutare il cane. Tu perché di alcol un po' ci capisci, de bibite te ne sei bevute, poche però. Qualcuna, vabbè, intanto stiamo registrando. Invece abbiamo redivivo anche Davide Gatti, anche detto Survival Hacking. Eccomi qua, buonasera. Qualcuno mi vedrà adesso da un po' di tempo che non mi si vede in uno stato dritto, più dritto. Sì, esatto. E oggi di solito sono steso, però oggi, siccome devo andare a fare la risonanza magnetica, sono praticamente drogato, però poi alla fine la risonanza magnetica non sono riuscito a farlo. La morfina. Lo strumento per insufficienza strumentale. Intanto sto con gli occhiali, ragazzi, perché c'è la congiuntivite. Cioè, era troppo piccola la risonanza magnetica per me, quindi... Ci vuole ancora più amorfina. No, in realtà ha ragione Davide, perché in realtà in questi centri di diagnostica c'hanno queste risonanze magnetiche localizzate, no? Quelle che ti fanno. E quindi ovviamente non so tutte all'altezza per lo spessore umano dei vari personaggi, insomma, no? Devi andare in quelli dove c'hanno proprio la risonanza magnetica, quella grossa, quella che ti infilano dentro e ci devi stare. E te pannano lì per ore. Esatto. Ti passano l'olio. Sono abbastanza vivo, anche se dentro sono... Sei morto. Dentro sei morto e vabbè. Comunque, Carlo Sant'Agostino, buonasera a tutti. Sei ubriaco. Poi questa non è la puntata solito di corsa. Sì. Arrivo in macchina, butto la macchina nel parcheggio, scendo le scale sdraiato, mi tuffo in taverna, accendo ed eccomi qua. Quindi neanche un panino, neanche un panino. Panino l'ho mangiato al tempo che fu per strada. Esatto. Mentre che guida, perché insomma, voglio ricordare che voi a nord siete tutti un po' Nico Bellic, soprattutto Davide. Comunque salutiamo tutti quelli che sono in chat. Marco, vogliamo salutare qualcuno che sta in chat? C'è Massimo, poi c'è Vincenzo. C'è Vincenzo. Vabbè, Vincenzo poi c'è sempre. Vincenzo. In officina con Grisù, vabbè, con Grisù G, no? Ho letto un'altra cosa, poi te lo spiego. Vengono tutti Gesù Grino. Gesù Cristo, esatto. Ma io penso che ci fosse un'intenzione. Esatto, esatto. No, okay. Non c'era, però ormai è così. No, mai fa così, insomma, fa ride, insomma. Bene, ragazzi, allora, intanto Carlo Sant'Agostino, archeologia informatica, mentre Davide Gatti, survival hacking, ovviamente i canali già li conoscete, ma se non li conoscete andate, cercateli su YouTube, iscrivetevi, attivate la campanella, condividete, mettete like, fate tutto. La stessa cosa potete fare su questo canale qui di Runtime Radio. Iscrivetevi, mettete like, commentate, già lo state facendo, insomma. Detto questo, ci è venuto in mente, dato che insomma, stavo spulciando durante questi giorni le puntate di Quando eravamo futuro, e c'erano queste puntate dei sopravvissuti sui cibi degli anni 70-80, no? Tutte quelle cose, Marco, alle quali siamo sopravvissuti, incredibilmente. Questo è quello che pensi tu. Esatto. In realtà alcuni non sono sopravvissuti. Posso fare una promessa a questa puntata? Oppure... perché questa puntata si occupa appunto di queste bevande di cui noi tutti abbiamo usato e abusato. E come potete vedere, questi sono i risultati. Tipo Davide Gatti, Davide che non sta in piedi, Carlo che, Carlo che ha detto che fa le scale da sdraiato, e mangia mentre guida. Perché vabbè, che poi verso questa cosa delle scale, Carlo mi ha fatto venire gli spray, mentre lo spray del Commodore 64 da sole al buio. Esatto, ma io ce l'ho congiuntivite. Dovuto a ciò che ha bevuto la bambina, dovuto a quello che ha mangiato e bevuto. Infatti, poi dire sopravvissuti, secondo me, non è neanche appropriato, perché in realtà qualcosa di noi è comunque morto in quelle cose che noi abbiamo bevuto. Insomma, quindi questa sera noi volevamo trattare delle bevande, bibite e alcolici e superalcolici che erano popolari negli anni 70 e 80 e che oggi non sono più così tanto popolari, o addirittura sono un po' spariti dai radar, o addirittura sono stati banditi. Guardi, secondo me qualcosa del bandito c'è stato. No. Tipo il bandito, secondo me. No. Niente, ufficialmente. No, ufficialmente, però dopo, niente. Insomma. Cioè... Vabbè, non è che posso andare a dire, guarda. Il podcast è quello del buon Gualdi, giustamente. Ah, giusto, hai ragione. Marco Gualdi, che ho visto cose, che è un podcast dove parlate di film, serie TV, un po' tutto, insomma, tu e Olivia, esatto, e in un modo molto originale, molto particolare. Ah sì, non lo sapevo. Podcast in grande ascesa, tra l'altro, devo dire che secondo me tempo sei mesi. Entro la fine di questo secolo faremo il botto. Esatto, ragazzi. Esatto. Va bene, comunque veniamo al... vai Gualdi, iniziamo con... Io non posso leggere, cioè... Non devo leggere. La prima bibita, la bibita. Poi allora, vado a elencare. No, parte uno per volta, ne parliamo, poi... Ah, dopo... comincio io quindi? Vai, non è che cominci tu, sei tu che io non ci vedo oggi, quindi... No, qui ci sono delle cose, le bevande, cioè la prima cosa che vedo è il Brancamenta. Allora, perché ho messo il Brancamenta? È bravo, perché il Brancamenta in realtà, che poi Fernet Branca, no, vi ricordate, insomma, era comunque questa azienda che fa Fernet, fa insomma i superalcolici, gli amari, fondamentalmente tutti speziati ai sapori di morte, speziati alle erbe, insomma, diciamo così. E il Brancamenta era la stessa cosa, il Fernet Branca, solo che c'era questa punta molto accentuata sulla menta. Ora, il Fernet Branca e il Brancamenta ancora esistono, cioè fondamentalmente. Credo di aver visto anche la pubblicità proprio ieri. Bravo, esatto. Cioè, sono dei settantenni che lo bevono ancora. Esatto. Però, perché era particolare? Era particolare perché allora era molto popolare. Oggi, insomma, sì, ogni tanto rifanno le pubblicità in televisione. L'estate. E poi c'era sta cosa, no? Lo spot che diceva 12 mesi d'estate, cioè nel senso che lui diceva Brancamenta, ti ricordava? E poi c'era sta cosa. Io mi ricordo soprattutto il bicchiere di ghiaccio. Nel ghiaccio. Brancamenta. E poi ci mettevano le cubette di ghiaccio dentro. Esatto, nel ghiaccio. E che adesso 12 mesi d'estate non lo puoi più dire, perché sennò la gente le dice d'estate. No, che oh, ma che è questo periodo poi. Cioè, oh, anche se in realtà con la siccità uno potrebbe fare la pubblicità Brancamenta 12 mesi di siccità. Vabbè, andiamo avanti. Comunque allora, voi lo bevevate il Brancamenta? Vabbè, Carlo, diciamo, fa poco testo. Io devo dire che l'ho bevuto una volta sola e mi è anche piaciuto. Io l'ho bevuto e te l'ho detto. Ah, ecco, sai perché il mio ricordo a che cosa era legato? Al fatto, io vi ho sempre detto che sono innamorato del colore verde sin da ragazzino. E bevo la menta, poi dopo ne parlavamo di questa cosa. Anzi, mia madre mi faceva latte in mente, diceva il cappuccino verde, tutto verde. A me c'è la casa verde, la cosa verde, tutto verde. E prima c'avevo sta fissa del verde. E quando io vedevo la pubblicità in televisione, che era un po' ingannevole, perché in realtà il Brancamenta c'ha lo stesso colore di un qualsiasi amaro, cioè marroncino, insomma, no? Invece loro te lo davano un po', te lo spacciavano per verde, capito? Cioè, quindi Brancamenta, menta più verde, per me era la bevanda della mia vita, sì, insomma. Dicevamo che c'è ancora qualche vecchio che lo beve, infatti Vincenzo in chat dice che beve. Pure buono ghiacciato. È buono, no, ma è buono perché comunque è buono ancora, cioè. Buono è buono, adesso domani vado a comprare il Brancamenta. Però devi anche far vecchiere ghiaccio. No, c'ha senso. No, però oggi ho imparato che si possono fare i ghiacci rotondi con i palloncini. Cioè, tu prendi il palloncino, quello là, insomma, e tu gonfai il gavettone, lo riempi poco. Non quelli in farmacia, quelli. No, quelli su altri palloncini. Anche se poi. È che vengono molto ghiaccio, molto ghiaccio, troppo ghiaccio, un po' però sguisciano via subito. Vabbè, dai, basta. Io lo conosco per, io francamente tutte queste gamme di super alcolici le conosco per assimilazione pubblicitaria, ma non perché li abbia provati o bevuti. Anch'io uguale a Davide, solo pubblicità me le ricordo. Che schifo, ma che si deve fare questi qui? Cioè, parlare di cose astemie, perché sono astemie, sì, sono astemie, però ci stanno anche cose non alcoliche. Astemio 1 e astemio 2 ci abbiamo. Esatto. Noi vi vogliamo bene come se foste normali, tranquilli. Allora, poi c'è la batita di cocco. Io non so, mi ricordo il nome, ma non so che cacchio sia. La batita di cocco è un liquore al cocco, fondamentalmente. Esatto. Cocktail anche fresco. C'era una pubblicità, sì, tipico della cultura bipolare, no, popolare brasiliana, allora, a base di alcol, sì, latte di cocco, sì, latte condensato, e qui te finisce la serata, però se te allora, ciccio no, mio, no, no, va, di solito è astemio. È proprio la morte sua. No, allora la batita di cocco difficilmente si beveva liscia, cioè se la bevi piccoli bicchierini con un cubettino di ghiaccio, altrimenti si usava per i cocktail, cioè, nel senso, se no, sì, sì, sì, no, vabbè, cioè, però era buono, ma esiste ancora, però veramente non mi è capitato solo in un locale che io ero abituato, c'era un periodo che facevo praticamente il succo d'ananas con lo sciroppo al cocco, sciroppo Fabbri. Questa dice: no, perché lo sciroppo? Metteci la batita di cocco. Pum, ho messo la batita di cocco, gli ho dato quella nota alcolica. Però insomma è buono, dai. E ovviamente Vincenzo, batita di cocco, ottimo. Buono, Vincenzo, secondo me qualsiasi cosa. L'alchermes, toh. Che sei allora, buono, con le mie boiate, vedrai che quelle dirà non le ha provate. L'alchermes. Vai avanti. Allora, ma, cioè, proprio, ma l'alchermes, ma di che sa? Non so neanche cosa sia. Coccinelle grattugiate dicevano che erano. Infatti, sì, no, no, cocciniglia. Vabbè, comunque in ogni caso. Amaro cinarra, però cinarra, allora, dai, allora. Contro il logorio della vita moderna, esatto. Innanzitutto cinarra. C'è un motivo per cui c'era Ernesto Calindi, esatto, bravo. Cioè, nel senso, c'era l'amaro cinarra, c'era, che esiste ancora. Esiste, sì, ancora, sì, nei bar, io l'ho visto, insomma, anche se pure lì non ha più il fascino. Non so caga più nessuno. Ci fu il rilancio della pubblicità da parte di Eli, sì, che rifecero il mitico spot di Calindri in mezzo al traffico. Sì, esatto, Milano, bravo. Che in realtà poi il Cinar è l'unico che c'è la cinarina, ed è l'unico che veramente si può. Sono un cacchio di amaro. Il Cinar. Poi, è dall'altro, attraverso questa cosa che era il carciofo, capito? Cioè, c'è la cinarina, sì, l'amaro al carciofo che faceva un po'. E c'era sti immagine di sto carciofo che non è, cioè, diciamoci la verità, non è poi così marcante. Insomma, no. Cioè, beh, tu sei di Roma, carciofi a Roma, scusi. Ma carciofo mo magno, mica mo bevo, però. Cioè, poi... vabbè, magni, bevi tutto il carciofo. Sempre due carciofi, la stessa cosa. Infatti, io adesso. Noi famo, se ne prendi due, uno lo puoi anche mangiare. Esatto, e l'altro ci fa l'amaro, però. Infatti, adesso facciamo la bevanda alla carbonara, perché dice, sai, sei di Roma. E sopra il piatto di pasta. Che faccio qui? Allora, poi c'è il Punte Messe qui proprio, mi ricordo, ma vai, caro. Pubblicità è Punte Messe, cioè aveva una rima finale, no, che non me lo ricordo, sì, ce l'ho, sì, messo, sì, ma non me lo ricordo perché c'è un vermut, è un vermut rosso, ce lo ricorderà, è un vermut, vermut rosso, prodotto dalla Carpano dal 1870. Ma perché si chiama Punte Messe? C'era scritto, allora, chiama erbe aromatiche, bla bla bla. Perché il simbolo sembrava un punto. Il nome deriva dalla richiesta di un cliente che voleva un vermut con un punto, un bicchiere, di china e mezzo bicchiere di bitter. Ah, punto e mezzo, ok. Un bicchiere e mezzo. Aperitivo, yes, aperitivo, punto e mezzo. Giusto. Ah, vedi, bravo, così me l'hai acceso. Aperitivo con punto e mezzo. Tu non bevi, non facevi, però le cose. Non potevo bere a 5, 7, 8 okay, anni. Stai, cioè, appiccicato al televisore, certo, sei tutto pubblico. No, certo, io, certo, alla mia memoria. No, io ce l'ho con Carlo. Sì, con Carlo De Qua. Con Carlo Gualdi. E andiamo sullo Stock 84. Stock 84 era la pubblicità di Milano. Cioè, sì, era la Milano da bere. Anzi, mi ricordo c'era proprio un edificio a Milano con la scritta Stock 84. Sì, a Milano in realtà negli anni 80 era tipico in centro e nei palazzi eccetera, in alto c'erano le scritte luminose, sì, pubblicitarie, e quasi tutte erano molto spesso degli alcolici, sì, Duomo, Mazza, pure a Roma, pure a Roma, di meno ma pure a Roma c'erano un paio di due o tre palazzi che c'avevano stile. Milano è stato per anni Piazza Duomo, che è una parete piena di insegne luminose che adesso non esiste più praticamente. Bianco Sarti, qualcuno ci ricorda? Sì, ma ci arriveremo. Ci arriviamo. Comunque, Stock 84. C'è, sì, una piccola esiste nota. Ancora? Sì, sì. C'è una piccola nota amara, adesso è stata spostata la produzione nella Repubblica Ceca. Ah, ok. Come le macchine, praticamente. Come macchine, costa tutto di meno. Le fanno in Bulgaria, sì, perché costa di meno. Vabbè. Poi ci sono. Questo perché ce l'hai messo? I frizzi pazzi. Non si beve. Allora, frizzi non è una bevanda. Non è una bevanda, però. Ora però aspetta, se tu spiego. Lo metti. Diventa una bevanda perché ti si scioglie con la saliva, allora, che schifo, no, adesso che schifo, eh. Allora vi spiego di questa cosa, noi ne abbiamo anche parlato nella parte, cioè quando abbiamo parlato delle merende, le cose insomma particolari, in realtà che cos'era quella polverina al sapore di frutta d'arancia, io mi ricordo d'arancia, ma non so se c'erano anche altri gusti, che tu li mettevi sulla lingua, schioppettava tutta, no? E quindi era il limone, io me la ricordo, era divertente per questo. Però io mi ricordo che c'era un mio amico che la scioglieva nell'acqua, quindi alla fine faceva, lui ti diceva che era un frizzi pazzi, ci faceva la bevanda dalle tue parti questa. No, vabbè, non è che si usava così, è ancora vivo, però e che ne so io, secondo me non lo so. Comunque qui dice che il frizzi pazzi non è più in commercio, già. Perché in realtà ci sono, sembra, c'è una variante, c'è un nuovo... sì, ci sono alternative magari più salutari, cioè che magari non sì, hanno tolto il plutonio, hanno messo l'asbesto direttamente, esatto, perché ricordiamo che poi la cosa fondamentale non è tanto il fatto è che non c'erano controlli e soprattutto non si sapeva se alcune cose facevano male o no, e quindi ma perché deve far male? Perché per esempio c'erano delle bevande super colorate, tu ti ricordi? Sì, i coloranti quelli E70, E320, che sono ancora usati quelli. Esatto, Pantone 324. Film quello dei pozzetti. Devo essere un nuovo importante in chat. Ciao Marco Valleggi. Grande. Benvenuto Marco. E allora, andiamo con una cosa sulle polveri, no? Sulle polveri, polveri sì. Fine. Sì, perché io questa è una cosa che non ho mai fatto. Allora, innanzitutto io non amavo l'acqua frizzante. Anzi, adesso devo chiedere anche l'aiuto alla chat, perché a Carlo se si ricorda, perché c'è un buco. Perché infatti c'è cioè questa cosa della polverina magica, e cioè l'idrolitina. Non solo, c'era la cristallina, la l'idrolitina. C'era anche la frizzina. Esatto. Sì, tutte le varianti ovviamente. Però c'era anche una cosa che attenzione. Dove, non mi ricordo come si chiama, se quench, non mi ricordo, che in realtà faceva diventare faceva diventare al sapore di arancio, che ne so, la bottiglia di acqua. Era frizzina. Però c'era tipo quench, sì, ce n'erano di varie marche. Sì. Che tu prendi la bustina, metti nell'acqua e diventa aranciata. Esatto, che dicevano poi in realtà. Ma anche lì poi poca roba chimica, insomma. Sì, sì, io lì proprio tutto naturale. Qualcuno suggerisce Aulin. Però anche quello l'hanno tolto, però no, non è in realtà non l'hanno tolto, l'hanno bandito da alcuni paesi. Esatto. Più che l'Aulin c'era, come si chiama quello al sapore di menta che è al posto del Moment? La Novalgina? No, quello che prendi quando hai il mal di gola. Sì, ho capito, lo stesso principio. Sì, è tipo Aulin, però è quell'altro che sa di menta, che fa schifo proprio, però. Esatto. Vabbè, sono medicine, d'altronde non è che devono essere buone. Se no, te le mangi, no? Esatto, non ti aggiungi le medicine. Che buono. Il chinotto neri. Allora, chinotto neri. Ce ne erano mille di chinotti in Italia. Sì, però il chinotto neri era il chinotto. Perché adesso recentemente non fatto. Erano molto a zone in Italia all'epoca. Cioè, dopo, infatti, nella mia parte parlerò di una marca che praticamente c'era solo in Lombardia, a Milano. E neri, per esempio, da noi non era così popolare. Probabilmente nel Lazio lo era di più. Sicuramente. Forse sì, no, perché ricordiamo sempre che l'Italia era un paese. L'Italia negli anni 70 era molto settoriale, sì, cioè c'erano delle marche. Questa cosa l'abbiamo detta mille volte, noi vediamo ogni volta. Insomma, però. Ragazzi, abbiamo pubblico nuovo, gente nuova. Hai ragione. Vedete che oltretutto dobbiamo ricordare, adesso ci vedete in live su YouTube, ma quando eravamo futuro è un podcast. Generalmente che ha una lunghissima serie, quindi se volete recuperare tutte le puntate, le trovate su tutti i maggiori aggregatori. Sì. Comunque quella alla mente era Loki. Vabbè, che è la versione dell'Aulin, solo che dicono meno dannoso, insomma. Beh, perché è ok, lo dice anche il nome, ok, ok, ok. La cedrata Tassoni, tanto amata, quella è storica, la cedrata Tassoni. Oltretutto ha fatto, credo, la pubblicità televisiva della cedrata Tassoni, è rimasta identica per 40 anni, è durata tipo 20 anni in televisione, sempre uguale, lo stesso spot, tipo quello del pennello cinghiale. Sì, sì, ma lì invecchiava il personaggio, però, cioè, no, lo rifacevano. No. Sì, era sì, sì. Lo stesso che no. Sì, ma invece Tassoni è uguale. No, no, è vero. Guarda, ha avuto un periodo che è scomparsa e adesso è riapparsa. È ritornata, sì, è vero. Non è scomparsa. Che non si è nascosta. Nessuno. No, perché non aveva nessuno, avevo solo si io. Si è nascosta per riprendere le forze. Esatto. Adesso sta tornando. Perché sapeva che, cioè, in realtà io l'avevo solo io. E di solito negli anni io la cedrata l'ho sempre trovata nei piccoli paesi. Difficile che la trovavo. C'erano quelle avanzate negli anni. Capace benissimo. D'altronde il colore della cedrata ha sempre un po' fatto che vince. Nuca con la quanti. Possiamo dire che bere le bibite scadute non fa male. No, perché no. Scadono le bibite. Infatti, scadono. Tutto scade. Se le slasci, scadono. Giustamente. Allora, no. C'è gente che mangia l'uovo millenario. Quindi a quel punto, giusto. Sì, che non è veramente un uovo millenario. Vabbè, però, comunque, dai. Le bibite alla spina. Io le bibite alla spina. Sì, sta cosa. Adesso, a parte oggi, che tu vai nei pub e ci sono le bibite alla spina, quando negli anni 70 e 80 voi. Vi ricordate ste bibite alla spina? Cioè, allora, qualcosa nel mio cervello c'è? Non so se sono la stessa cosa, però c'era una Coca-Cola da Fanta e le Sprite che venivano date alla spina, ma il 90% era acqua. E certo, vabbè, okay. Certo. Allora sì, me le ricordo, fino a qualche anno fa. Sentiamo Carlo, che è più vecchio di tutti. Roba. No, io le bibite alla spina, certo, ci sono sempre state, ma alla spina era poi... c'era il fornitore della bibita alla spina, quindi in realtà erano sempre marche, cioè la Coca-Cola alla spina o la Coca-Cola o la Pepsi oppure piuttosto un'altra cola, ma non è che esistevano delle bibite generiche alla spina, c'era sempre un fornitore per la bibita alla spina in ogni caso, cioè la bottiglia pressurizzata che viene inserita ti arriva da una marca. Vabbè, sì, no, sì, ma quello che è una sottomarca può essere una marca principale, ma ti arriva sempre da una marca. Quello che volevo sapere io è che se tu ti ricordi negli anni 70 e 80, quando eravamo ragazzini, negli anni 80 le bibite alla spina, io onestamente non. Ah, io mi ricordo di un. Sono sempre state in genere. Vabbè, però io non me ne ricordo. Mi ricordo di un bar che aveva la specie di maniglia con 5-6 bottoni sopra, da quale usciva la soda, la coca, l'aranciata, eccetera. Lo usavano per fare i cocktail. Generalmente, però se volevi la coca o la Fanta, perché eri un ragazzino, schiacciava solo il pulsante della coca e veniva fuori la coca, però in realtà lo usava come attrezzo per fare attenzione a quello che dici Davide, perché poi c'è una transumanza da Milano verso il posto negli anni 70 nelle località turistiche i bar avevano tutte le bibite alla spina, comunque già negli anni 70 no, questo da noi forse di meno. Gualdi, tu ti ricordi? Sì, no, ma si guadagna di più con le bibite alla spina, quindi tendevano ad averli. Io non lo metterei tra le cose non salutari, perché alla fine era tutta roba diluita con l'acqua. Sì, no, erano i sciroppi poi fondamentalmente, sì. Come oggi, cioè tu comunque c'avevi una parte sciroppo, una parte acqua pressurizzata, sì, con anidride carbonica e via, insomma. Comunque Vincenzo si lamenta e dice, ma come la Pertas, Aperol più cedrata e granita di limone, ma dove vivete? Allora, Aperol e cedrata io la prendo ok, perché si chiamasse Apertas se non lo sapevo, cioè, non so. Sì, ma Vincenzo è di Napoli, quindi quella sarà stata di quella zona lì. Ah, okay. Caserta, non dire che di Napoli. Aperol e cedrata se beve dappertutto, cioè, nel senso, però magari ognuno poi lo chiama Caserta. Oh. Come tutte le cose, ognuno ha il nome. Qua c'è il nome originale dai parti nostri che è Aperol e cedrata. Esatto. Sì, incredibile nome di Aperol e cedrata. Esatto. Acqua tonica con chinina. Allora, perché questa cosa? Perché? Perché in realtà conosco il chinino, ma la chinina non so se è la stessa cosa. Sì, però perché c'è questa cosa che all'inizio del secolo c'era questo tizio che si è messo lì a fare questi esperimenti e vedeva che praticamente inserendo chinina, anidride carbonica nell'acqua, l'acqua diventava frizzante, no? E allora dice, cazzo, è una cosa bellissima. E alla gente gli piaceva questa cosa. Però tu, ecco, quanta gente sarà morta? Perché fare domande? No, infatti. Ormai sono morto, a me l'acqua tonica piace, però quella di adesso non so. Senza la chinina. Penso che non ci sia più ormai. Ma la chinina. Ma non so se sia tossica la chinina, perché dice qui vedo su questo foglio che adesso spesso non viene usata la chinina, quindi non viene più usata perché evidentemente non era un componente. Beh, non ho mai capito che differenza c'è, forse qualcuno di voi o del pubblico sa spiegarcelo, tra l'acqua tonica e l'acqua brillante. Credo perché, che vabbè, non cambi, è un modo diverso di chiamarlo, ma credo che sia la stessa cosa, perché alcune volte la chiamano acqua tonica, altre volte acqua brillante. Però anche io me lo so sempre posto sta domanda, bravo. Forse vediamo se acqua brillante è una questione di marchi. Sì. Di marchi, cioè sì. La Recuaro la chiamava in un modo, la Boario o le altre marche un altro, per non sovrapporsi probabilmente con che qualche poi marchio, che hanno anche Schweppes, che poi qualche marchio registrato. Sì, non so. Poi dopo c'è ma, tipo la soda, la gazzosa, la 7 Up. No, gazzosa è il nome comune, poi esiste okay. I marchi. La 7 Up è una gazzosa, l'ho segnato dopo. Sì, vabbè, 7 Up cioè, è una gazzosa effettivamente, che però diciamo, ha ridefinito il nome della gazzosa, nessuno la chiamava gazzosa. Cioè, nel senso, io quando ero ragazzino mi ricordo che tu andavi in bar. Dopo, lo vuoi anticipare? Ah, ok, no, ok. No, allora ne parliamo dopo. La soda al limone o arancio? Vabbè, questa è oran soda, lemon soda. Non capisco perché è una cosa che non ci sta più, cioè, ci sta ancora. No, la lemon soda e l'oran soda ci sono ancora. Io la bevo sempre, la lemon soda, sempre. Chi ha scritto questo articolo era un cialtrone. Infatti, un cialtrone. Chinino Brioschi. Chinino è quello che si beve contro la malaria? Sempre chinino, chinina, sempre. No, è sempre acqua tonica. Comunque Brioschi sa roba amara, sa come andava, veniva infatti consumata per scopi digestivi, perché evidentemente, cioè, tu quando stavi lì che stavi un po' appesantito tipo cazzarola, mi sono mangiato mezzo rigatone in più, perché ricordiamo che la nostra gente si saziava con molto meno per rispetto forza. A me e Carlo Sant'Agostino ad esempio, no? L'amaro cora. Mai sentito negli anni. Io l'ho sentito. La Marocora era molto popolare. Beh, era negli anni 70. Sì. Forse al nord. Probabile. Mai sentito. Perché se era, se era di Roma si chiamava la Marocore. Esatto. Lì, tu lo ricordavi. Le bibite. Perché bibite analcoliche in generale? Un po' generiche. Alcoliche, bibite alcoliche. Alcolico, giusto, perdon. Bibite alcoliche. Questo non l'ho mai sentito. Manco io lo spiritello, però ho cercato, volevo documentarmi. In realtà volevo fare. Sono state ritirate dal mercato. La bibite alcoliche sì, un po' generica. Diciamo che le bibite alcoliche viaggiano moltissimo in Giappone, se devo dire la verità. In Giappone, dove ci sono cascato anch'io con una bella lattina con su un bel limone gigante, che me lo sono bevuto, era a 12 gradi. Porca! Sono stato di un male pazzesco. E ti credo, vai tu che non sei abituato, giustamente. C'è Luca di Retro Games che dice che nel Lazio era popolare l'amaro ciociaro. Può essere, c'è può ancora essere. Probabilmente. Può essere. Comunque, in Giappone il macchinario c'è il macchinario alcolico e quello non alcolico. Quello alcolico in realtà sono camuffate bene, perché sembrano delle bibite in realtà, perché chi domina un limone grosso così, con che ti fa pensare che sia una roba di cosa rinfrescante, diciamo, che bello. Invece piccolino sotto c'è scritto 12%, che io pensavo di limone. E invece era di alcol. Beh, certo, mettere le lattine dei bibite alcoliche, poi in realtà alcoliche, abbondantemente alcoliche, dentro un distributore, da noi forse in Europa non esiste proprio sta roba. È poi legale. Esatto, perché forse, un minorenne potrebbe prendere. Forse è anche illegale, sì, giusto, proprio. Che arriva il bambino. Vabbè, ce ne erano veramente tante. In Giappone la sensibilità, c'è una ragazzina ubriaca. Tutte molto attraenti. Portiamola molto a casa. Esatto. Lasciavano molto trasparire il fatto che fossero alcolici, però erano in una macchina a sé. Vabbè, quindi magari il giapponese c'era scritto sa, certo. Alcol. Ok, magari sì, il giapponese lo sa, certo, chiaro, chiaro. E tu non sei venuto a sapere. Tu non sei giapponese. La mirinda. Ficcimi mirindi. Manco io. La mirinda, l'aranciata della Pepsi. Sì, infatti leggo che della Pepsi è stata prodotta fino agli 80. Però allora, la cosa bella, Coca-Cola, scusate. Pepsi. Scusa, Coca-Cola, Fanta, Pepsi Cola, Mirinda. Qui non mai sentito. Da sotto casa tua, Davide, è andata fallita subito. Comunque è molto interessante, perché era apprezzata per il suo colore arancione acceso. Esatto, cioè nel senso la particolarità della Mirinda, che probabilmente. No, ma anche la Fanta negli anni 70 era arancione fluorescente. Era vero. Sì, era molto colorata, sì. Ancora il trittico. Che poi oggi hanno compensato. Sprite, della Pepsi erano Pepsi, Mirinda, 7-Up, cioè avevano anche loro il trittico equivalente. Cocktail dello stupro, poi. Esatto. Vediamo se Simone se lo ricorda. Dice Luca che nel Lazio c'era la Rattafia. Rattafia sì, esiste ancora. Sì, quella esiste. Mai esiste, sentito esiste. Proprio. No, sono liguri, no, ma è, quelli, però, non solo Lazio, comunque. I visciole che sono le ciliegie. Visciole, sono ciliegie, sì. Ciliegie un po' più mare, no? No, non sono più dolci, ma sì, vabbè. Siamo... Non ci interessa. Amarene. Sì, sì. Oh, vabbè, comunque dai. Arriviamo alla 101. 101, allora aspetta, comunque la 101, mitica 101, certo. Allora, la 101 io ve la ricordo, però tu, sì, cioè, sì. Questa non esiste proprio più. No, no, questa non esiste più, è stata sì, uccisa, sì, dalla Coca-Cola. Esatto, era la concorrente italiana della Coca-Cola. Bravo, bravo. C'era cola e guaranà. Era buona, ti assicuro che io all'epoca la consumavo, sì, parecchio, sì, era, mi piaceva tanto. C'era anche un motivo, che una volta le cole erano cola e cocaina, no? Ok, esatto. Però alla fine la Coca-Cola era cola e cocaina, no? In generale le cole, secondo me, abbiamo studiato, ma si vede che non segue quando eravamo futuro non è un podcast dove si studia, è un podcast dove si cazzeggia, non è tecnologia informatica. Si studia, si studia, no, qui non si studia, no, comunque non si studia niente, diciamo che e alle cole, nel momento in cui è reso illegale l'estratto di foglia di coca, giustamente questi qua della 101 che hanno detto noi ci mettiamo il guaranà, che non è la stessa cosa, però insomma il guaranà è sempre un altro spirito. Che è la stessa cosa che ha pensato la Coca-Cola, noi ci mettiamo no, è un po' spingente, diciamo, il guaranà è eccitante, insomma, sì. So che alla fine mi sembra che sia stata la causa proprio con la Coca-Cola e 101 ha dovuto... Che strano. La Coca-Cola è molto protettiva sul mercato, infatti poi c'è una storia che racconterò dopo nella parte successiva. Ah, vedi, quindi c'è un po' di storia dopo. Vedi, con Carlo è sempre... Poi torniamo alla bibita, che c'è ancora il crodino. Il crodino, quello è un mito. Allora, però chi è che lo beve il crodino? Io. Io tantissimo. Bevo ancora il crodino. Tu lo bevi il crodino? Non ultimamente, però sì. Io tantissimo. Io se vado in un bar... Crodino. A me non mi è mai piaciuto. Io ho avuto due crodini in vita mia, quindi. A me piace proprio una droga, per me, il crodino. È l'alcolico biondo che fa impazzire il mondo. Sì, sì. No, mi piace. Poi c'è il gorilla. Mi piace, no? Tanto. Adesso c'è pubblico. Anche perché è analcolico, quindi quando tutti si prendono qualcosa di alcolico. Ah, ma il crodino. Prendere... Il crodino, ho capito. No, ho sbagliato. È quell'arancione. Sì, sì, quell'arancione. Sì, no, bevurio il crodino. Buono. Io sempre lo bevo. Però è una fettina d'arancia. Però è vero che, insomma, andava più degli anni 70 e 80. Credo, sai. Ma guarda ancora adesso. No, va tantissimo anche adesso. Ma tanto. In quegli anni andava. Si vedeva molta più pubblicità, diciamo. Poi come vendita non ti so dire se vede più adesso. Ultimamente il crodino fa un sacco di pubblicità. Cosa dici? Negli ultimi anni ha fatto la campagna quella col gorilla che andava 250.000 volte in televisione. Che figa, quella era figa. Era costruito un bel personaggio. Il gorilla che parlava romanaccio. E poi dopo il gorilla ha preso quell'attore americano, quello biondo un po' bruttino con il naso storto, sì, che ha fatto recentemente la pubblicità. Ciao Enrico, saluto l'altro. Fatto anche sta schiaccio, come si chiama? Della Crodo va tantissimo nei bar, puoi chiedere a chi ha un bar, è una dei... Tra il caffè, il crodino, il San Pellegrino, il San Bitter sono le cose. Sì, sì, è vero, sono d'accordo. Quando ancora era San Pellegrino Bitter. San Pellegrino, l'aranciata esagerata. Campari Soda. Il Campari Soda, vabbè. No, hai saltato una roba importante. Adesso lo riprendo, tranquilli. Bravo. Però, che cos'è la soda? Perché tornavo sempre all'acqua brillante. Qualcosa di un acido. La cosa è il seltz. È l'acqua gasata. L'anidride carbonica nell'acqua. Quindi è un altro modo di chiamare l'acqua frizzante. Cioè, diciamo che la soda serve per gasare le cose, esatto, non gasate. Infatti la soda si usava nei cocktail, io ricordo. Sì, in pratica iniettavano quasi anidride carbonica in sostanza dentro a quello che era l'intruglio che preparavano e diventava gasato. Che figo. Senza aggiungere troppa acqua, se no si annacquava. Martini e soda, capito? Hai saltato e adesso andiamo all'orzata. Sì, l'orzata bibita bianca. Allora, su questo mi soffermo un secondo, perché in realtà ho pensato all'orzata, cioè viene considerata come una cosa più degli anni 70 e 80, e oggi in effetti la rosata magari è tra gli sciroppi quella che si beve di meno, forse, sì, probabilmente. Sì, però diciamo che non è più venduta ai bar come bevanda, è difficile trovarla. No, no, si trova pure nei supermercati e tutto quanto, però sicuramente tra gli sciroppi, in particolare quelli originali, sciroppi Fabbri, quelli che insomma... Quelli storici, diciamo così, alla fine comunque è forse quella venduta di meno. Per una volta invece si trovava spesso, e c'erano questi sciroppi Fabbri che erano bellissimi e ci sono ancora, che venivano mischiati, cioè la menta con l'orzata, oppure la marena col cosa, c'è il caffè, un caffè pugliese, non mi ricordo, un caffè che si fa in Puglia che è caffè orzata. Sì, perché in realtà l'orzata poi alla fine è un po' particolare, perché è difficile riuscire a capire che sapore c'ha, però se pensi più che anice, secondo me è più nocciola, cioè più qualcosa mandorla, che ricorda la mandorla, bravo, bravo. È vero. La mandorla, infatti se tu lo metti un goccino in determinati bevande, comunque ti danno quel... La mia house ci ricorda il tamarindo anche. Tamarindo, sì, certo. Classico, mia madre ce l'aveva sempre il tamarindo nel barretto. Che c'era anche il ghiacciolo al tamarindo. Tamarindo potevi scaricarlo nel batter diretto, per quanto mi riguardava. Per pulire, per sturarlo. Aiutava insomma. D'altronde tantissimi detersivi che usiamo oggi avevano lo stesso sapore. Dice Little Saturday là che l'orzata è mandorla. È mandorla, vedi? Infatti, guarda, ce l'ho sempre avuta sta cosa da quando ero ragazzino. Comunque, tornando ai sciroppi Fabbri, una cosa che io ricordo tanto è c'erano pure i caroselli dei sciroppi Fabbri, che erano fighissimi. Sì, e poi la cosa bella dei sciroppi Fabbri, voi sapete, io sono legato sempre per il fatto della menta e tutto quanto, che noi oggi li vediamo solo come sciroppi da diluire nell'acqua, ma una volta, che erano molto concentrati, si utilizzavano anche come topping sui dolci, sì, cioè tipo, che so, la torta con la panna e ci mettevi sopra la fragola, per dirti, e ci facevano i ghiaccioli poi oggi perlomeno, cioè. Poi giustamente, come Davide ci ha ricordato pure oggi mentre ne parlavamo, dice sì, però una volta la menta c'era quel colore iperverde, no? E ci sarà un motivo, la menta è trasparente, tra l'altro, infatti, però... aspetta, finisco di dire questa cosa. Poi in realtà ci sono uscite delle mente e c'erano dei colori un po' più, diciamo, naturali, ecco, se vogliamo. La bottiglia bella verde, che quando lo vedevi sembrava bello verde. Esatto. Però quando lo versavi era un po' deludente. Però diciamo che lo sciroppo Fabbri è tornato ad avere un colore abbastanza acceso, anche perché i coloranti alimentari che si usano oggi sono dei coloranti, diciamo... o meno chimici. Sani è una parola grossa, però sono accettati, tollerabili, perché comunque vengono considerati proprio effettivamente progettati per essere coloranti alimentari, mentre allora insomma i coloranti esatto. E la cosa che bella, ci fai con la cosa scolorita della panchina verde, esatto. La cosa bella è che invece una volta io ho comprato una bottiglia di menta da Italy. Ed è lo sciroppo era completamente bianco, cioè nel senso è completamente trasparente. Cioè nel senso ci precisa Luca in chat che l'orzata è essenzialmente zucchero ed essenza di mandorla, spesso chimica. E l'interessato dice che è differente, il latte di mandorla è molto più dolce. Esatto. Però lo ricorda il latte di mandorla, infatti. Sì, perché è senza di mandorla, esatto. Che però è fatta anche chimica. No, guarda, che la chimica non lo mettevo in discussione, guarda. Allora, non lo mettevamo qui. Se ti fai una granita al cianuro, sa molto di mandorla. Vabbè, quello lo sappiamo, amara, che amara. Se senti il profumo di mandorla. Io non voglio sapere perché lo sai, Davide Gatti. No, me l'ha detto, l'ha scritto in chat. Ah, ok. E lui perché lo sa, non lo vogliamo sapere. Perché avrà visto tutti i film di Hitchcock. Esatto. Comunque, mandorle amare, ricordiamola, mandorle amare. Comunque, i sciroppi Fabbri sono tutti buoni, ragazzi. Però menta vince sempre. Allora, ci viene segnalato il top spirit. No, allora, questo lo segnalo io, è una bibita, abbiamo saltato il Bianco Sarti. Tutti uguali. No, non era Bianco Sarti. No, infatti era Brancamente. Faceva lo spot Telly Savalas, quello di Kojak. Sì. Ah, grande. Quindi se Kojak si ciucciava con... Per questo è morto. Questo era velato. Ha perso tutti i capelli. Esatto. Era velato. Così. Vabbè, ma per colpa di Bianco Sarti. No, beh. Allora, invece il top spin è una cosa che ho aggiunto io, è una bibita fantasma, perché è una bibita di cui ho fatto delle ricerche già a suo tempo, anni fa, ma anche adesso, e non esiste, cioè davvero mai sentita, giuro, non mai esiste sentita da nessuna parte. Io difatti la voglio citare per vedere se per caso qualcuno non se l'ha mai sentita, anzi facciamo un appello, per dire. Allora, è una bibita, il top spin. La lattina era arancione, aveva tante bollicine, era una bibita al tè, banalmente, però gasato. Che schifo, Madonna mia, il tè gasato. È durata un annetto e si chiamava top spin. Nel tempo che scadessero e venissero a buttare, certo. Comunque, erano distribuite fino a che non sono finite. Neanche una foto in giro è rimasta. Fate la domanda, ti credo. Fate la domanda e date una risposta. E scommetto che non sei riuscito neanche a scoprire chi la produceva. Assolutamente è vero, John Doe. Però secondo me, se glielo chiediamo a Bing, ci risponde. Bing no, non ci ho provato a quello. Guarda, veramente si canta la gente. Bing, mi piacerebbe quantomeno rivederla un attivo e per affetto, dici? Per affetto. Ma tu l'hai bevuta? La bevevi? L'ho bevuta volentieri e ti piaceva? Piaceva, la bevevo spesso. Sì, strano, vedi che ti è successo poi bere quella per un motivo, dai. È successo qualcosa. Ricordati che oggi stai pagando quelle lattine. Da oggi, le ernie, i dolori, le cose, è tutto là, tutto sto top spin. Che... Vabbè, io bevevo anche quella che dico che c'è dopo, che ha fatto un'apparizione in Italia brevissima. Dr. Pepper. Vabbè, a Dr. Pepper. Quella era super famosa in America. È famosa in America, però in Italia è stata venduta per un breve periodo, non ha riscosso neanche minimamente successo, certo. Ed è sparita. Come gli americani devono bere quella, dai, insomma. No, ho scoperto che sto vedendo il film in America va parecchio, sì, appunto, solo gli americani sanno bere, insomma. Comunque in pratica è una Coca-Cola che sa di ciliegia, sì, più o meno. Tra l'altro, se siete curiosi di cose che non esistono da noi, c'è affamatiusa.it, credo ce ne sono numerosi adesso, questi negozi, sì, che vedo tutte le maialattici americane. Però per la cronaca, almeno qua a Milano, non lo so. No, ci sono diversi siti comunque. Sì. Nei supermercati qua in zona a me. Pronto? Davide è morto. E questi sono gli effetti della top spin. Che tu hai bevuto la top spin. La top spin è quello che succede. Tu pensi che... Davide, noi non ti sentiamo, se tu è morto. È andato, Toccherà sentirlo. Se volete, intanto proseguo sulla... Però dobbiamo saltare... Aspettate che devo andare a ricaricare, aspettate. Il voi paragrafo tanto... verde che... No, allora, fa quello verde, facciamo dire a lui che ha fatto le ricerche, quando lo recuperiamo. Magari facciamo... Quello rosso è il mio, invece. Il tipo con la gazzosa Johnny. Sì. Praticamente la prima bibita che ho messo, me la ricordo perché mi ricorda mio nonno, perché era la gazzosa Johnny. Non so se esisteva anche al sud, però a Milano la marca Johnny era famosissima ed aveva uno spot che era apri l'occhio, Johnny, apri l'occhio. Johnny Mnemonic, se non sbaglio. Stavo facendo la mia parte perché tu sei scomparso, quindi ecco. Abbiamo saltato... la tua. Stavo parlando della gazzosa Johnny, poi tu te la ricordi la gazzosa Johnny o le bibite Johnny? No. Assolutamente. Pensa no. Che a Milano, in Piazza Duomo, in alto, una delle insegne luminose era la gazzosa Johnny ed era famosa per la pubblicità che aveva questa faccia disegnata in stile futurista. Era una bibita degli anni 30, figurati. E infatti mi ricorda mio nonno perché era la sua bibita preferita, era una gazzosa normalissima, solo che si chiamava gazzosa Johnny e lo spot era apri l'occhio e mio nonno faceva così sempre, no? Vuoi la gazzosa? Apri l'occhio, gazzosa Johnny. E quindi mi viene in mente sempre mio nonno pensando alla gazzosa Johnny. Johnny? Però Johnny aveva era una ditta appunto degli anni 30 e faceva varie bibite nella zona di Milano, soprattutto c'era anche della pubblicità in Piazza Duomo e poi c'era su, per esempio, ha fatto la pubblicità sui biglietti del tram di Milano, quindi ci sono, trovi ancora i biglietti del tram degli anni 70-80 con sopra la pubblicità delle bibite Johnny, praticamente. E come dicevo, la faccina era in stile futurista, quindi se cercate comunque su internet la trovate. Ecco Davide che è tornato. Sì, Davide, stavo dicendo, Johnny, io davvero mai sentita proprio. Sì, era di molti anni fa, quindi io me la ricordo solo perché mio nonno me la ricordava, quindi figurati. Però mi ricordo che c'era ancora negli anni 70, quindi probabilmente è una bibita che era famosa negli anni 30, quindi stiamo parlando veramente mio nonno era del 9, quindi chissà negli anni 30 quante altre bibite c'erano che non conosciamo. Però hanno fatto scattare la seconda guerra mondiale, sicuramente è stata colpa loro. Vabbè, a questo punto Davide continua te, ricontinua con il New Coke. Stavo finendo di dire quando si è interrotto che la Dr. Pepper comunque in certi supermercati qua si trova normalmente. Quindi chiudo parentesi. Ma a te piaceva? Cioè, questa... A me piace tuttora, sì, mi piace tantissimo sia la Cherry Coke che la Cherry Pepsi, che sono le Coke e la Pepsi alla ciliegia. La comprerei se la trovassi tranquillamente. No, comunque intanto vi spiego perché mi alzavo, perché per ragioni proprio logistiche, fino a che non allestiamo bene lo studio il computer della regia state là. Per far rientrare Davide sono dovuto rialzarmi. Comunque, quindi Davide non andare più. Vi ricordo, ho fatto fare esercizio fisico. Vi ricordo sempre che per Sassone Runtime Radio c'è questo QR code sopra in alto a sinistra, insomma, se volete, Sostieni Runtime. Ricorda magari anche il link per chi ci ascolterà in podcast. Per chi ci ascolta in podcast basta andare su www.runtimeradio.it e niente, lì c'è un pulsante, si chiama anche io, e c'è il gatto che mi guarda da fuori dalla finestra, quindi mi tocca rialzarmi un'altra volta. Ci sono due gatti, ricordati. Un altro volevo ricordare un paio di curiosità, non c'entrano molto con le bibite, almeno per quanto riguarda l'Italia, però sicuramente l'avremo sentito, anche se qua in Italia magari non l'abbiamo potuto provare. Ma nel 1985 la Coca-Cola stava subendo un duro colpo da parte della Pepsi, era veramente agguerrita la lotta e stava cominciando ad avere qualche piccola sofferenza, e avevano cercato di capire come fare una bibita che assomigliasse alla Pepsi, e cambiarono la formula nel 1985 e uscì la New Coke, cioè la nuova Coca, e l'altra era stata sospesa dalla produzione, è uscita questa New Coke. Ma anche in Italia? No, in Italia no. Ah, ok. No, in Italia non è arrivata, però è curioso che sia accaduto questo fenomeno negli Stati Uniti, che è durato fino al 2002, quindi per parecchi anni l'hanno venduta, anche se già dopo pochi mesi hanno rimesso sul mercato la vecchia, perché a tutti piaceva di più quella vecchia, e l'hanno chiamata Coke Classic. E poi c'era la New Coke, e questa è stata una curiosità. Io ho fatto in tempo ad assaggiarla, comunque la New Coke me la sono fatta portare dagli Stati Uniti da una amica. Ho detto sempre che si spiega sempre tutto, E non solo, sempre in quel periodo, per un brevissimo tempo, è nata la Crystal Cola, che era la Coca-Cola trasparente, cioè senza coloranti. Fa schifo solo a pensarci. Il gusto era identico, ma era trasparente, solo che la gente che la beveva moriva. Era qualcosa che non quadrava col cervello. Diceva, che questa roba trasparente sa di Coca-Cola, non va bene. Impazzivano. L'hanno eliminata. Vincenzo, ringraziamo che ha sostenuto Runtime Radio. Grazie, grande Vincenzo. E questi sono tempi duri per Runtime Radio, poi vi spiegheremo bene, ma insomma non è questo il momento. E quindi niente, era solo una piccola parentesi per ricordare una roba che riguardava le bibite. Poi dopo, se noi dovessimo parlare dell'America, allora di quelle porcherie ne ha fatte. No, noi rimaniamo concentrati sulla nostra esperienza. Però questa era una bella curiosità, perché comunque l'Italia ci è mancato poco che arrivasse, però non l'ha riscosso. Quindi niente. Fortunatamente hanno usato gli americani come test. No, io comunque, cioè, se devo dire la verità, perché io mi sono sempre domandato, quando i ragazzi, le cose da noi non arrivano, e tutti si lamentavano, no? Siamo un paese del terzo mondo, no? Però poi alla fine, in realtà, le scelte di apportare o non portare una bibita in un determinato posto a volte è anche il frutto di uno studio sui gusti e sulla cultura del posto, perché comunque in effetti alcune cose che sono arrivate in Italia magari dall'America poi alla fine non hanno funzionato, cioè nel senso succede. Chi è che prende a cazzotti il microfono ancora? Io ce l'ho. colpa mia, scusate, Mirko, rispondo a Mirko, sì, sono dopato, scusami. Mi chiede Sì, sì, l'ha spiegato. Ricordiamo che Davide in questi giorni è malato, quindi, in questi giorni sì, in questo momento ha preso il Vigodin di essere fatto dare da dottor House, più o meno sì, come se avessi preso quello. È sempre a causa di queste bevande, tra cui i bipitini colorati dell'oratorio, di cui tu andavi ghiotto, quelli esistono ancora, sapete? Io non l'ho mai sentito, no. Non andava all'oratorio, sì, perché... quelle bottigliettine dell'oratorio di plastica. Blu, rosso, ma io non ci andavo all'oratorio, assolutamente no. Ah, beh, è vero, tu sei il masticavi il tassino, lo sputavi e poi bevevi sta roba che era peso acqua zuccherata. Io ero comunista pure quando ero bambino, cioè. È nato comunista, era acqua zuccherata penso e scolatura di maiolica. Adesso li fanno blu dentro è trasparente, giallo ma dentro è trasparente. Una volta era trasparente la confezione, dentro era blu, giallo, verde, rosso, arancione. Giustamente. Con i vari E240. Sì, sì. I vari isotopi radioattivi. Insomma. Però era una bibita che costava tipo 10 lire, per cui tu andavi all'oratorio e prendevi 6 liquirizie, 5 spumoni, 3, facevi tutto il kit di aggeggi, no? Uno di quelli, e così mangiavi e bevevi, insomma. Mangi e bevi, insomma. Una bibita costava di più. Quella fare costava poco. Chissà perché. Se blu piace a Vincenzo, dicono. Andiamo avanti. Comunque ci sono le varie bibite della Boario, la Oran Z e la Lemon Z. Sì. Le copie pirata della Lemon Soda. Le copie pirata dell'Oran Soda e della Lemon Soda. Si chiamavano Oran Z e Lemon Z. Perché noi in Italia sta cosa ce l'abbiamo sempre avuta. Quella uno fa una cosa di successo e allora io la faccio uguale con una virgola di meno. Beh, non solo in Italia, cioè. Comunque la Boario era, sì, la sì. Boario ha fatto la Lemon Z e l'Ora Z, che erano bibite uguali, praticamente sono state identiche. Le conoscevi? No. Manco compatibili. Erano compatibili, tipo le cartucce da Canon. Esatto. Vabbè, io ho aggiunto, ricordiamo la frezzina idrolitina, l'abbiamo ricordato, e poi sono incappato in una foto, a dire la verità, che è nel nostro documento, no? Nel quale si vedono delle bibite sconosciute. C'era la San Pellegrino. C'era la San Pellegrino 101, ok. Poi c'era la San Pellegrino Spell e la San Pellegrino Dribbly. Manco che erano la gazzosa e il chinotto. Ma qua no. Dicevano che una era una gazzosa e una era una roba tipo 7 Up. Beh, che è sempre gazzosa. Ma la gazzosa e la 7 Up hanno una leggera differenza. No, alla fine è la gazzosa. Sì, so, però la 7 Up è più buona. No, forse la 7 Up è più brava, hai detto bene. Perché secondo me la c'è qualcosa di diverso. Secondo me era più limonosa la 7 Up. Sì, c'aveva esatto. Forse un po' un limone. C'è il lime dentro lo Sprite. È limonosa. C'è la lime, mentre la gazzosa è gazzosa. E qua ho visto adesso, non le conoscevo, non le mai viste, tale Spell e San Pellegrino, che, cioè scusa, dei Dribbly, boh, era giusto per curiosità, ecco. Qualcuno magari la vita le ha viste. Qualcuno le ha assaggiate e purtroppo non è più qui per raccontarcelo. Comunque, allora, della gazzosa Johnny ho già parlato, sì. Quindi la saltiamo. Poi, a proposito del discorso Coca-Cola che protegge il mercato, non so se vi ricordate il periodo in cui la Virgin fece la serie di bibite, la Virgin Cola, la Virgin Orange, ve le ricordate? Ma la Virgin, anni 90, quella... però, mi sbaglio. Eh? Era verso anni 90, però, mi sbaglio. Anni sì. 90, metà anni 90, okay. Fine anni 90. Era la Virgin, che era la famosa casa dell'imprenditore magnate inglese che ha fondato la Virgin Records. La Virgin, prima, la Virgin, poi la ha fatto la Virgin, Virgin quella Air, delle, Virgin degli aerei, e poi a un certo punto decise di, così, da niente, dice, ma io voglio diventare un alternativo alla Coca-Cola e alla Pepsi, no? Quindi andare a fargli la guerra, e lanciò in pompa magna la Virgin Cola principalmente, che poi fu seguita da tutte le altre serie di bibite, come ovviamente la Virgin Cola, me la ricordo, però cioè. La Virgin Cola, che era proprio il simbolo della Virgin, sì, con sì. Scritto Cola, sì, sì. Fece veramente tanta pubblicità in tutto il mondo, però a un certo punto sembra che la Coca-Cola iniziò a uccisi tutti. Fargli, sì, ma concorrenza anche dal, tipo, dal punto di vista sleale, cioè a mettere i bastoni tra le ruote, tipo che se i bar ordinavano, i locali ordinavano non gli forniva la Coca-Cola, se ordinavano la Virgin Cola, quindi gli tornarono indietro gli ordini, perché sennò non potevano comprare la Coca-Cola, e quindi proprio si mise di traverso in maniera pesante sul mercato e nel giro di pochi anni fu costretto a fare marcia indietro, perché praticamente questo Coca-Cola ovviamente è colosso. Ricordiamo che, però su questa cosa che tu dici, ricordiamo che le grandi distribuzioni tipo i fast food, se hanno Coca-Cola non hanno Pepsi, se hanno Pepsi, esatto, non hanno cola. Esatto, okay, quindi, esatto. Pepsi, siccome esiste da tanti anni e poi è sempre stata molto alternativa alla Coca, hanno un equilibrio loro due. Probabilmente un terzo incomodo è stato facile per la Coca-Cola e probabilmente anche per la Pepsi buttarlo fuori, certo, sul nascere, perché dicendo che o vendi quello o se no io non ti do niente, allora ovviamente con un nome Coca-Cola come Pepsi le varie catene di distribuzione, bar, locale eccetera, non hanno più preso la Virgin. Le no, io la Virgin Cola me la ricordo, tu te la ricordi, Waldi? E fu distribuita anche in Italia, c'era anche nei supermercati, sì, mi ricordo, sì. Fine anni 90 la compravo al supermercato, oltretutto erano prodotte in provincia di Brescia, qua la fabbrica in Italia, a Montichiari. Se non sbaglio le bibite Virgin erano tra le più colorate in assoluto, cioè il 99% era colorante, ma di tutti i tipi. Vabbè, ma quello per lo spettacolo. Erano tutte così. Veramente terribili. Vabbè, comunque questo per ricordare anche questo episodio e il fatto che la Coca-Cola si mise proprio pesantemente di traverso e fece chiudere, diciamo, l'impresa. E poi ho messo come ricordo ovviamente una cosa che tu, Simone, non la conoscerai perché è dell'oratorio e quindi tu non avendo mai frequentato un bambino comunista. La spuma bianca, la spuma nera, c'è cioè l'oratorio, c'è la spuma. C'era anche la spuma rossa. La spuma rossa, più bianca, che non ho mai capito cosa fossero queste spume. Manco io, erano spume, buone, sì. Diciamo che erano chinotto, ginger e arancia, però si chiamano spuma, non so come mai. La spuma bionda a Roma, cioè quando ero ragazzino io era pure alcolica, tra l'altro, quindi non so io bene. Scritto, non ho idea di cosa comunque siano la spuma, però sono buone, che abbiamo dimenticato quasi tutti. Ho visto che invece è ritornata nei supermercati con anche la bottiglia con la label proprio dell'epoca. Certi supermercati questo essendo il periodo del grande revivalismo, la marca era Spumador. La Spumador, bravissimo. Bravo, esatto. Allora c'è ancora ed è uscita con credo la grafica uguale a quella degli anni 60, immagino. E ci sono queste bottiglie, spuma bianca, spuma nera, spuma rossa, che poi in definitiva sono sempre comunque della famiglia dei chinotti. Del ginger, quello che oggi chiamiamo ginger, quello diciamo sul rossiccio, no? Sì, che ginger si chiamava pure allora, pure negli anni 70 si diceva ginger. Sì, che non so esattamente cosa sia anche quello, perché dovrebbe essere zenzero, però sì. Non sa di zenzero, non sa il cacchio che è. Soprattutto, sì, però in effetti trattato in certi modi diventa arancione la... Ecco, e ora veniamo a quella che abbiamo citato più volte durante la puntata, ma parliamo proprio di lei, cioè della 7-Up. La 7-Up, che è appunto questa gazzosa che per un periodo di direi 80-90 ebbe anche molto successo, era molto molto popolare, quasi come la Coca-Cola e altre bibite molto popolari, la conoscono tutti. Uno dei particolari che ho visto citato anche in chat prima, ma l'avevo scritto anche nel documento, tantissime persone la chiamavano Zup. Anche io la chiamavano Zup. Ma sì, conosco veramente tanta gente che la chiamava la Zup. Come la Zup? C'è scritto 7-Up. Tu dici Zup, la chiamavano Zup. Non è che la chiamavo, però vedevo quel 7 col pallino, mi sembrava la parte finale della Z, capito? Quindi dicevi Zup, ma perché ripiccolo, quindi no? Sì, la chiamavano 7-Up, eravamo già grandicelli. Non grandi, grandi, ma insomma. Quando l'ho rivista negli anni 90 già mi sono reso conto, ma prima no. Inizio anni 80. La prima pubblicità, per darti un'idea, una delle pubblicità più famose della 7-Up era con Pac-Man. Presero Pac-Man come testimonial. Sì, ma ricordo. E poi non solo, è ancora importante nel mondo del videogioco la 7-Up, perché il famoso punto rosso della 7-Up era diventato un personaggio che si chiamava Cool Spot, di cui sempre la Virgin che aveva anche una casa di software che era la Virgin Games, ci fece un videogioco su Cool Spot che uscì su Nintendo, SNES, Game Boy e ebbe anche un discreto successo. Sì, conosco la storia, ma non ci ho mai giocato. Cool Spot era un platform, un classico platform, che era un platform però legato a un prodotto, quindi era una pubblicità in pratica della bibita, però fatta con la mascotte della bibita che era diventato un personaggio del videogioco, che era il punto rosso della 7-Up con le scarpe e le braccia, era stato umanizzato, è diventato Cool Spot, il punto figo. Voi preferivate la Sprite o la 7-Up? Rispondete anche in chat, ragazzi. Io la Sprite, devo dire. Io 7-Up. Anche se ne ho bevute pochissimo di 7-Up, perché non era facilissimo trovarla, si trova, comunque se è sempre stato più difficile trovare le Pepsi, la 7-Up le erano sempre un po' osteggiate anche ai supermercati in qualche modo, non le mettevano mai a parità, no? C'era sempre un bar di Coca-Cola e sì, due Pepsi. Sì, non è che se ne sono mai viste tantissime, però c'erano, comunque c'erano. Sì, no, c'erano, però comunque preferivo la Sprite in generale. Nicchia, anche perché evidentemente non vendeva, al supermercato mette sugli scaffali la roba che vende, non è che... Ecco, certo. Poi la prossima bibita è famosissima ancora oggi, fa tantissima pubblicità, è storica la sua sponsorizzazione del Giro d'Italia da decenni, l'Estatè. L'Estatè è credo una delle bibite più vendute in Italia in assoluto, e la cosa strana è che è vendutissima in Italia ma all'estero quasi non esiste praticamente. Perché fa schifo, poi ricordiamocelo. No, a me piace. No, dai, sono veramente dei chimico, ragazzi. Cioè, no, è buono. L'Estatè è l'unico che ha senso. Piace, no, dai, fa schifo. Cioè. No, è buono. Oltretutto l'Estatè, tu dici che sa di chimico, in realtà l'Estatè è l'unico dei tè che vendono che è fatto a infuso, anziché essere fatto con la polverina come gli altri. Immagina sta vasca di 400 metri di infuso di tè. Infatti io che amo il tè, è l'unico di quelli confezionati che riesco a bere, perché somiglia veramente a un tè vero, anche se è molto troppo zuccherato, quindi ormai non lo bevo più. Il problema è iperzuccherato. Perché è iperzuccherato, però il sapore è quello del tè. Perché poi se vi ricordate, quando eravamo bischelli, mi ricordo che vendevano l'Estatè con le cose, con i bastoncini e la Nutella. Lo sto dicendo. Scusa. L'Estatè adesso purtroppo si è persa la cannuccia dell'Estatè di carta, fa schifo come tutte quelle delle bibite di adesso che fanno sta cannuccia di carta che è orribile. Lo so, però sai, il pianeta ringrazia comunque. Mica tanto. Comunque lasciamo perdere questa discussione. L'Estatè aveva la cannuccia di plastica appuntita, durissima, che praticamente ti bucavi anche una mano se non stavi attento, si potevi bucare una mano, e questa cannuccia di plastica appuntita serviva per bucare la pellicola, che ricordiamo l'Estatè non aveva. Adesso sì, perché hanno fatto sta cannuccia di cartone, quindi hanno dovuto fare un punto apposito per bucare, se no si rompe. Ma nel vecchio Estatè la pellicola sopra del bicchierino non aveva nessun punto segnato dove mettere la cannuccia, però c'erano delle bollicine di Estatè disegnate sopra, e so che il 90% di quelli a cui l'ho chiesto usava una di queste bollicine pensando che fosse il segno dove mettere la cannuccia. In realtà la potevi mettere dappertutto perché non c'era il segno per mettere la cartuccia. In realtà io sulle bibite con le cannucce, che ricordo io, solo a un certo punto sono apparsi i segnalini dove bucare, perché sennò piavi e mettevi proprio così. Esatto, mettevi così, esatto. Anche perché quella cannuccia era durissima, era proprio una roba che potevi bucarti e forare. Anche un occhio, ci potevi bucare un occhio. Esatto. E comunque quello che stava dicendo invece Simone non era quello della cannuccia dura, come stavi dicendo tu, che veniva venduto e l'accoppiata a un altro prodotto l'Estatè. Vabbè, c'era quello con la Nutella e Grissini. Quello esatto. Stavo dicendo. Sì, quella era la merenda, c'era Estatè, Nutella e Grissini. Che posso dire una cosa? Della Ferrero vendevano la bibita che la Nutella, che i Grissini, e tu mangiavi i Grissini con la Nutella e ti bevevi l'Estatè. Allora, posso dire una cosa su questo? Merenda. Perché io me lo ricordo benissimo, e infatti prima lo stavo ricordando, poi pensavo che avevi capito che stavo... No, io pensavo parlassi della cannuccia. No, io parlavo proprio della cosa, tu scartavi, c'era l'Estatè e c'erano i Grissini con la Nutella. Esatto. Che posso dire che come abbinamento non c'entrava un cazzo, niente. Sì, non è che le hanno abbinati solo perché era Ferrero che possedeva tutte e tre. Cioè, capito? Cioè, ma anche a me non piaceva quello, però cioè, a me piace con la Nutella, l'estate non ci trova niente. Cioè. Lo so, anche perché la Nutella è buona da spalmare sul pane, no? Sul grissino. Sì, tra l'altro, che poi si sbriciolavano tutti in macello. Esatto. Poi la Nutella. Cioè, quanta Nutella c'era dentro? Vabbè, tu non ti sei mangiato. Oh, è una merenda per bambini, era semplicemente Nutella. Io la volevo mangiare uguale, va bene? Va bene, va bene. La volevo mangiare anche adesso. Anche adesso, soprattutto. Va bene. E poi cosa ho fatto? Siccome io sono astemio, lo sapete, l'ho già detto molte volte, in realtà io ho sempre sofferto di essere astemio, invidiavo tutti quelli che bevevano alcolici, no? Quando vedevo uno bere alcolici lo invidiavo, quindi io gli alcolici li conoscevo tutti ma non li bevevo perché non riuscivo e non riesco a berli, e quindi ho segnato degli alcolici dell'epoca, bibite dell'epoca che mi ricordavo e che non sono stati segnalati prima ma che susciteranno, immagino, dei ricordi magari anche a chi invece li consumava, tipo i famosi liquori all'uovo, come il Vov e lo Zabov. Vabbè, allora ve li ricordate? Allora, il Vov e c'è sta ancora, cioè nel senso, sì. Anche lo Zabov, sì, lo Zabov non lo so, no. Però che poi sarebbe lo Zabaione, è la copia poi del Vov, sì, perché poi praticamente Zabov, il principio non è tanto il fatto che era un liquore all'uovo, era lo Zabaione che diventava liquore poi, cioè nel senso, mia nonna lo faceva, da sola, cioè lei prendeva le uova, sbatteva, faceva lo Zabaione e poi ci metteva l'anice per ditte, no? Maraschino. Diciamo che sono liquori che adesso si consumano meno, una volta erano molto diffusi, erano sì, a livelli io mi ricordo negli anni 70 in tutte le case del mondo, sì, dove sì, andavi sì, sulla sì, mensola c'era il Vov. Il Vov, è vero. Sempre. Diciamo che sempre. Oggi allora, prima si mangiava di meno e quindi magari una cosa più pesante non ci facevi caso. Oggi a fine pranzo te portano il Vov, io rido indietro, cioè nel senso no, basta, prego. Esatto. E ti sei mangiato poi un chilo di gnocchi, no? Vedete, ce ne vuole un po' di Vov? No, no, va bene, un centerbe. Esatto. L'altra cosa che mi ricordo, questa è molto tipica degli anni 90, quando si usciva in compagnia, avevo un sacco di amici che si bevevano la crema whisky. Ma che era una specie di roba alcolica che è dolce, cremosa, marrone, che usciva fuori da. Era buona nel gelato. Allora, questa crema di whisky ci si fa il gelato, ci si può fare il caffè, cioè nel senso ci si può la bevevano proprio, mi sì, ricordo. Sì, no, pure noi la bevevamo. Sì, sì, vabbè, ma sai perché? Quando eri pischello, sì, per esempio, c'avevi 15 anni, 16 anni che non lo bevevi il whisky. Bene, la crema di whisky faceva anche un po' figo, no? Cioè, nel senso, e poi era dolce, era buona, cioè, nel senso, però è come una sorta di crema di caffè, soltanto che è di whisky, insomma, fondamentalmente. The whisky. Vabbè. Comunque ci ricordano che lo Zabov è il liquore di Ferrara, ancora presente in città regolare. Benissimo, quando verremo a Ferrara, verremo a ubriacarci di Zabov. Ci scorterete. L'altra cosa che mi ricordo era perché è un paese che era vicino a dove abitavo, da Settimo Milanese, provincia di Milano, andando verso nord arrivavi a Saronno, e a Saronno si andava allo spaccio della Saronno, dove io prendevo gli amaretti da mangiare, ma c'era poi mio papà che si comprava l'amaretto di Saronno. L'amaretto di Saronno, l'amaretto di Saronno. Beh, caro Carlo, piaceva molto il profumo, ma siccome era alcolico, appena provavo a berlo, poi. Caro Carlo, tu non sai che l'amaretto di Saronno è costantemente utilizzato a grandi dosi durante le registrazioni di Ho Visto Cose. Insomma, quindi ecco, tu sappi, ecco, si capisce come vedi cose. E poi è strano perché veramente si sente pochissimo l'amaretto di Saronno, eppure allora era uno dei liquori più. Sì, cioè, sì. È buono, sì, è buono. No, ricordi che era Carlo il Lazzagrill? Lazzagrill, certo, lì è proprio appena. Ma perché fuori, scusate, ma voi ve la ricordate la pubblicità Grappa Bocchino, ecco, Sambuca Molinari? Etichetta nera. Sempre più in alto. Sempre più in alto. Questa roba sparita completamente. Sì, grazie a Dio. No, ma c'è ancora. Ma poi, forse grappa, chi ha pensato a fare la pubblicità in televisione Grappa Bocchino? Perché no, perché magari il signor Giorgio Bocchino, che ne sai? Cioè, ho capito, ma cambia nome. Cioè, ma quegli anni non, era, culo, non no? era la stessa cosa. Ma dai, come no? Grappa no. Bocchino, poi quello che lo diceva proprio con l'enfasi, capito? Mike, buongiorno. poi c'era dei, se dobbiamo ricordare allora queste due zone amari, c'è l'amaro Montenegro anche, no? Sono sopravvissuti. L'amaro Montenegro è quello del coso del veterinario che va a riparare tutti gli animali e salva tutti, che pure l'aereo terra, che non ti chiede quattro ce l'abbiamo fatta. I veterinari si sono rotti maroni e hanno dovuto cambiarla. Io non ho mai visto un veterinario che va a salvare un animale con l'aereo, però poi no io non ho mai visto un veterinario che va a salvare l'animale e si accontenta di un amaro. Esatto. Cioè come minimo ti sfida un rene, come no il veterinario è bravo e costa poco. Poi questo invece è un alcolico che mi ricordo perché sempre perché lo bevevano i miei amici e io no, quando uscivamo, me lo ricordo perché era una roba strana, perché era blu ed era una cosa che si chiama Curaçao blu. Blu Curaçao, sì, vabbè, si usa per i cocktail o qualche volta pure per qualche dolce. Liscio non l'ho mai visto bere. Ma però io ho fatto il tempo a mangiare, e sicuramente voi no, la fiesta al Curaçao. Ah sì? C'era la fiesta con la confezione blu. Non ci credo. C'è stata la fiesta al Curaçao. Hai assaggiato queste cose e stai pagando ancora le conseguenze di me fiero. Cioè, io l'ho assaggiata. Ma la fiesta che ti gusta tre volte tanto, perché c'erano tre gusti. Oggi la fiesta ha solo un gusto. La fiesta c'era quella verde, quella blu e quella gialla. C'era anche quella alle mandorle. Pensa a te. Alla fiesta io le merendine non sono mai stato un grande fan, a parte la girella motta, poi per il resto non la morale sempre, però l'abbiamo fatta già la puntata sulle merendine. Sì, la puntata sulle merendine l'abbiamo già, era una delle puntate, andate a recuperare la puntata. Comunque qualcuno ricorda altri nomi tipo Oro Pilla e Don Bairo. Oro Pilla proprio zero, cioè. Io invece ho delle cose che mi sono ricordato che vi dico così, il rabarbaro zucca è quello che stavo dicendo io. Ok, perfetto, l'hai rovinata, tutti gli spoilerano le cose. Poi c'era questa, era la zucca, è molto importante per i milanesi perché era al casello dell'A4 Milano-Venezia, c'era proprio la fabbrica della zucca, e quindi quando tu uscivi o entravi all'ingresso della Milano-Venezia, proprio al casello, che c'era sempre c'è ancora sempre coda, però all'epoca c'era ancora c'era di più coda, perché si andavano a bere. Esatto, e vedevi questa fabbrica gigante con la scritta zucca, no? Immensa, e mi ricordo soprattutto la pubblicità della vodka della zucca, perché la zucca faceva anche la vodka, una delle prime, credo, vodka popolari, almeno a Milano e dintorni. E mi ricordo che c'era la pubblicità che era una ragazza orientale, una cinese, a forma di Z, sì. A forma di Z, sì. Che reggeva appunto la. Però guarda che ti potresti confondere con la pubblicità dello zucchero, eh? Perché se tutti era proprio perché se vi ricordate quando eravamo ragazzini, la differenza era una che c'era la Z a quel punto sopra la Z, che era questa, sì, può essere. Però, perché insomma ricordiamo che negli anni 70 e 80 andava quella pubblicità, tra l'altro una sorta di pubblicità di sensibilizzazione su una cosa, poi tra l'altro anche sbagliata, perché poi abbiamo imparato con gli anni insomma che poi non era proprio così, che il cervello ha bisogno di zucchero, ve lo ricordate la pubblicità? Sì, mangiate zucchero, cioè come se oggi facessero, ma quella era proprio pubblicità Progresso, sì, esatto. Oggi facessero, poi in realtà invece era una condanna a morte, assolutamente, perché, come se oggi facessero diventare tutti diabetici, esatto, bravo, una pubblicità sul consumo del lardo, cioè mangiate il grasso che fa bene, un bicchiere di c'era, e questo è vero, c'era anche quella sul burro. Sì, il burro che fa bene, mangiate il però burro. È vero, era per contrastare la margarina che si stava, mamma si stava mia, davvero, ragazzi, la margarina poi era quello sì che era un surrogato chimico. La margarina era porcheria, cioè mandate il burro, mangiate. Vabbè, a meno che non sei vegano. E poi la mia ultima riga, poi ho finito, era ricordare forse la birra italiana più famosa negli anni 70-80, che era la Peroni. Sì, però lo è ancora pure oggi la birra sì, più però mi ricordo che era molto più famosa degli anni 80. No, cioè, non c'è un operaio senza panino con la mortadella e una bottiglia di Peroni. Cioè. De Peroni, poi sì. In chat ricordano Rosso Antico. Prego, definire rosso antico. Era un liquore. Era un liquore, rosso antico. Vabbè ragazzi, non è che io negli anni 70 me andavo a ciucciare. Io vi rilancio con le bibite dietetiche, noi le abbiamo completamente cannate, però c'erano le bibite misura di quello della Weight Watchers. Sostituiti da tutte le varie diet qualcosa. Esatto. No? E no, poi c'erano la Lineor, la bevanda dietetica Lineor. Di tutte le diet che conosciamo famose. Poi misura faceva tutta roba dietetica. Misura è uscita con delle bibite orrende, che era una base misura di saccarina. Adesso credo che misura faccia soprattutto solo i cracker. Perché esiste ancora, i cracker esistono ancora. No, fa un sacco di roba misura. Ma io mi ricordo che faceva pure i biscotti dietetici, soprattutto sì, ricordo misura, che era lo sponsor dell'Inter. Sponsor dell'Inter, esatto, bravissimo. Sì. Era sponsor dell'Inter degli anni 80. Esatto, sì. Infatti mi ricordo. Faceva un sacco di pubblicità misura, perché comunque erano tutti biscotti, cose, tutta roba. C'erano tante bibite. Vincenzo dice che siamo troppo giovani per fare quando eravamo futuro. Vabbè Vincenzo, vieni anche te, no? Così almeno. Quando eravamo futuro era gli anni 70 e 80, non era mica negli anni 50, quindi negli anni 50 era forse ci sarà, no, quando eravamo vivi. No, negli anni 50 era forse ci sarà un futuro, così sarebbe dovuto. Forse ci arriveremo. No, vi lancio l'ultima cosa che ho cercato oggi, mi è saltata in mente, ho detto cazzo, mi è acceso un neurone. Il stato in mente tipo un coso, un face hugger, sì. Il cambusa, l'amaricante. Sì, allora cambusa sì. L'amaricante. Che poi era l'anice pure quello. Sì, no, non lo so che cavolo era, però c'era questa cosa, era chiamato l'amaricante. Era una di quelle robe che nel mobiletto dei liquori c'era il cambusa, ce n'era uno anche con dentro una pera, mi ricordo. Con dentro qualcosa, poi c'era quello giallo con dentro una specie di fiorellino dentro. Quello giallo con i fiori dentro. Che se lo ricorda. No, poi c'era pure la cosa, la tequila col verme dentro. Lo strega, non ce l'ha dentro il fiorellino, era sulla confezione. No, c'erano delle bottiglie di strega con dentro una specie di fiorellino dentro. Ma perché ci cresceva, se tu lo lasci lì. Lo so, dal Giappone mi hanno portato un liquore alla rosa con i pesanti della rosa dentro. Io mi ricordo lo strega, mia mamma lo usava per fare lo metteva nel mascarpone. I dolci, sì, lo strega, sì. Il mascarpone, poi ci faceva rendeva alcolico praticamente la crema di mascarpone. Che poi come si chiama quello che si usa adesso, che quello rosso alcolico che si usa per i dolci? Ok, sempre quello. Quello che dicevamo prima. Ok. E niente ragazzi, se avete altre cose magari nella chat ditecelo, perché insomma noi abbiamo fatto una sorta di panoramica ricordando comunque cose, una manciata però. Sicuramente secondo me Davide, secondo me Simone, la Peroni non è più la più venduta in Italia. No, adesso no, non è magari la più venduta, però la Peroni era molto molto più venduta. Noi quando facciamo le tavolate d'amici c'è la Peroni, c'è il peronone, il perone gigante, insomma, come minimo. Però vabbè, sì, dai, a Milano praticamente è scomparsa. Addirittura è scomparsa. Sì, giuro. Milano, no, sì. Non si vede mai in giro. Non c'è, non esiste. C'è nessuno che va in giro con la birra Peroni. Nessuno. Vabbè, forse va più Moretti adesso, magari. Sì, la birra Moretti tanto. Ma Peroni qua a nord non c'è più. Niente, nord sono razzisti del Saperoni. Comunque no, la Peroni da noi ancora c'è, cioè nel senso in generale io la vedo, ma pure pubblicità, quindi insomma bene o male. Comunque vabbè dai, ma non è quello adesso. Ferrocchina Bisleri, dice Vincenzo, e ricorda Cambusa One, l'amaricante. Ah, vedi. Cambusa One, giusto, era così. L'amaricante, che poi... Mauro Undenberg, quello mai sentito, Vincenzo. Ah no, poi c'era, aspetta che c'è ancora... Quello là, Petrus Bonenkamp. Come si chiama? L'amaro alle erbe. Qual era quello alle 12.000 erbe lì? C'è il Terme, quello che aveva 90 gradi. No, l'Unicum c'era anche. Unicum. Cioè, come si chiama quello di Fantozzi che Filini dice: abbiamo portato anche quando sono in quella specie di nightclub dove. Ma quello penso sia inventato nel No. Abbiamo portato e c'era una bottiglia fatta tutta strana, un po' bombata, piatta sotto. Abbiamo portato, ma fa nascondi, ci porti due scotch chest. Mezza è un'altra cosa. Oddio. Ce l'ho a casa, vabbè, lo sai? Non me lo ricordo. Vintage proprio, vintage. Cioè quella bottiglia, ragazzi, che era mezzo liquore e mezzo liquore e mezzo crema di whisky, se ve lo ricordate, magari qualcuno in chat se lo ricorda. Mezzo liquore e mezzo crema di whisky. Sì, aveva la forma di mezza sfera piatta sotto e lui la tira fuori da un cartoccio e dice: abbiamo portato la la metta via, finì. Ci porti quattro scotch. No, questa dei Fantozzi non me la ricordo, però mi ricordo questa qua della sta bottiglia, quindi tanto Brunetta andà. Ballor, abbiamo portato la bottiglia di Brunetta. Si chiamava Brunetta. No, non me la ricordo. Come si chiama quella? Non me la ricordo. Non mi ricordo. Ce l'hai a casa? Ce l'hai a casa e non te lo ricordi? No. Vedi, no, ora non lo saprei, perché se no mi salta in faccia e mi esce dallo stomaco. Sì, a Roma c'è proprio la sera. Anzi, diciamo che hanno il divieto di vendere al di fuori dell'accordo di solito. Allora, ormai scrivono gli ingredienti in romano direttamente. Va bene, dai, ne abbiamo parlato. Siamo diventati ubriachi senza bere. Esatto. Stasera, no, comunque, se qualcuno, prima di salutarvi, se qualcuno si ricorda come si chiama quella bottiglia di liquore con metà liquore, c'è due uscite, una uscita, esatto, c'è una parte, mischia, no? Una parte più piccola c'è la crema dei whisky, quella più grande è un liquore al Sheridan. Sheridan, no, bravo, grande. Eccolo lì, grande. Ce l'ha detto Crocodac Prince. Grazie Crocodac Dundee. Comunque, volevo dire, sicuramente l'episodio che abbiamo fatto che andate a ricercare, insomma, sugli aggregatori per podcast preferiti, che insomma io consiglio Spotify perché è più facile. Se cercate Quando eravamo futuro, troverete anche tra le prime puntate la puntata proprio sulle merendine, cioè chiaramente le merende, le cose che ci siamo mangiati negli anni 70-80 ce le ricordiamo forse meglio, proprio perché essendo ragazzini non bevevamo gli alcolici, ma se mangiavamo le zozzerie, no? I gelati, le cose che gli effetti sono più o meno gli stessi, esatto. Poi ed è normale che magari nel senso era più sentita. Questa però era una cosa particolare, perché comunque nasceva dal fatto che io mi ricordo sempre questo mobiletto frigo che andava molto, no, negli anni 70-80 dentro le case, e forse oggi magari neanche c'è più, cioè c'era l'angolo bar. Esatto, io mi ricordo che quando ero piccolo mio padre, una delle sue proprio diciamo gli obiettivi della vita era stato quando si era costruito l'angolo bar in casa. Uh-huh. E io e mio fratello l'avevamo aiutato, l'aveva proprio costruito col legno di noce, il ferro battuto, aveva fatto l'angolo dove c'era la macchinetta del caffè, eccetera. Certo. E quindi c'era costruito in sala l'angolo bar e c'era tutte le bottiglie di tutti i liquori, eccetera eccetera. Negli anni 70 credo che fosse proprio, sì, diciamo che magari non tutti c'erano l'angolo bar proprio, però io mi ricordo sempre che in tantissime case negli anni 70 in particolare, forse anche anni 80, c'era questo mobiletto con le rotelle, lo ricordate, no? Che c'erano, sì, tutte le cose sopra e sotto, c'erano tutti sti liquori, e sì, tutti sti liquori che c'erano tutti sti colori particolari, che io li guardavo, mi hanno sempre affascinato, e ogni tanto li svitavo per sentire l'odore, no? E rimanevo, insomma. Però ecco, quindi questo è comunque la cosa degli anni 70-80 legata comunque alle bibite, quelle ipercolorate. Giovanni Fiorella ci ricorda infatti anche Billy era l'aranciata, che era famosissima a Milano perché era lo sponsor della quella che adesso basket, è l'Olimpia, sì, Basket, sì, basket, sì. Era la squadra di basket di Milano che si chiamava Billy Milano. Sì, sì, no, Billy comunque c'era insomma, era, esatto, distribuito. Quindi Billy era un'aranciata. Era un'aranciata, sì, è vero. E chiusura, dice Vincenzo, un bel caffè Borghetti. Il caffè Borghetti. Il caffè Borghetti, io nei miei tanti anni di stadio, d'abbonamento di stadio, chiaramente non c'era una partita dove non entravi con 5, 6, 7 bottigliette di Borghetti, insomma. Che non è mai una cosa positiva da raccontare, però era così, quando uscivi dalla partita eri sempre stordito. E non si tirava da mezzo al campo, si bevevano tutti. E non ci arrivavi tanto fino a mezzo al campo. Ah, giusto, Vincenzo ci ricorda una cosa bellissima degli anni 70, il mappamondo. Cioè con dentro la roba da bere che si apriva e dentro dietro al mobile bar, sì, è vero. Dentro lo Stock 84, Stock 84. Che ci ricordano. D'altronde Stock 84 abbiamo citato prima. Bene ragazzi, io direi che Bugaldi, c'hai altri ricordi, no? Tu magari avresti dovuto partecipare alla puntata dei giocattoli, quella secondo me ti saresti divertito di più. Però insomma, vabbè, d'altronde comunque anche questo. Io ringrazio comunque Davide Gatti Survival Hacking per due motivi. Uno, perché insomma è sempre un piacere con cui chiacchierare con Davide. E soprattutto vederti vivo e vegeto. E due, perché comunque il Vicodin ha fatto effetto. È sempre bello sapere che insomma non sta sempre sdraiato, ma ogni tanto sta anche in piedi. Adesso vado però. Esatto. E adesso sì, sta finendo l'effetto. Vedo già. E quindi grazie Davide. Ricordiamo Survival Hacking, il suo canale, dove andate, attivate la campanella, iscrivetevi iscrivetevi, attivate la campanella, mettete like ai video, condivideteli, insomma cercate di dare una mano. Saluto e ringrazio anche Carlo Sant'Agostino di Archeologia Informatica, anche lì andate, iscrivetevi, attivate la campanella, guardate i video, condivideteli, mettete like, fate tutto il dovuto e il dovere. E se ringrazio anche Marco Gualdi, di Marco Gualdi potete cercare sui vari aggregatori podcast Ho Visto Cose, domani esce la puntata, che domani esce la puntata, e tra l'altro ascoltate, perché insomma lui e Olivia parlano dei film, telefilm, cose, insomma giocate, escape room, cose in un modo assolutamente particolare, e piano piano insomma sta raccogliendo tanto successo. Invece vi ricordo che domani sera alle 23 c'è Runtime by Night, questa volta su runtimeradio.it, quindi torniamo insomma nella live della radio, e se volete dare una mano al progetto Runtime Radio c'è il QR code sopra in alto, insomma esatto, bravo, me ti indica, e dove insomma scannerizzandolo andate direttamente su quello che è il PayPal di Runtime Radio, che sta vivendo, come abbiamo detto, un momento di transizione abbastanza particolare. Detto questo, io vi ringrazio a tutti, grazie a tutti quelli che hanno partecipato, siete stati anche tanti, insomma ringraziamo anche chi è scansionato nel frattempo, ringraziamo chi è scansionato, qualcuno, Vincenzo, abbiamo anche qualcun altro, anche qualcun altro dovete dire, però insomma se l'avete letto lo dovete dire. L'Aver ci ricorda che mercoledì siamo live, ci sarò anch'io live per una roba musicale, si parlerà di musica. Ah, benissimo, benissimo. Vabbè, poi dopo Ernie al disco dance. Tanto quando Davide lo pubblicizzerà sul gruppo Survival Lagging, lo pubblicizzeremo anche sui canali di Runtime Radio, quindi insomma, ovviamente collaborare è sempre la cosa più bella. Ciao Davide. Ciao a tutti, ciao Simone, ciao. Ciao Carlo, ciao Marco, ciao a tutti quanti. Ciao. Potete staccare tranquillamente. Ciao. Qualcuno ha scannato. Ciao, grazie. Grandi.